Investire informati. Il tempo di bilanci per tutti, se volete condividere con noi le scelte che avete fatto quest'anno, anche in termini di investimento, non solo personali. Avete inseguito i mercati o avete inseguito i vostri obiettivi finanziari? 800 24 00 24 è il numero verde sempre a vostra disposizione. Se non potete chiamare, potete scrivere al 349 238 6666. Riceviamo gli sms ma anche i messaggi su WhatsApp. Tra l'altro, siete pronti a fare quel famoso punto della situazione con il vostro consulente finanziario che in puntate precedenti ho detto invitatelo a mangiarvi una fetta di panettone? Magari questo è il momento giusto per fare il check-up di portafoglio. Chissà se sono d'accordo. Claudia Segre, presidente della Global Thinking Foundation, benvenuta. Buongiorno. Ben ritrovata naturalmente. Con noi in studio oggi anche Luciano Turba, segretario generale della Global Thinking Foundation, ma anche responsabile del desk del mercato, del desk obbligazionario appunto per UbiBanca. Ben trovato anche lei. Non le piace come ho detto il termine? L'ho già vista che storce la bocca. Io provo a tradurre in termini italiani per i nostri ascoltatori le vostre cariche sempre un po' ridondanti. Me lo dica lei come... No, beh, semplicemente... le banche poi fanno cambiare anche di responsabilità. In questo momento mi occupo di cambi e derivati di cambio. Ottimo, va bene. Allora, intanto abbiamo anche un ospite telefonico che è invece Giovanna Boggio Robutti, segretario generale di FEDUF, la fondazione appunto che ho citato prima per l'educazione finanziaria e risparmio. Boggio Robutti, benvenuta anche a lei al suo primo intervento a Investire Informati. Benvenuta. Grazie, buongiorno a tutti voi. Allora, qua veramente c'è l'imbarazzo della scelta sui temi dai quali cominciare, però abbiamo dato l'assist, Claudia Segre, sul tema della differenza di genere uomo-donna. Voi come Global Thinking Foundation, solo ad aprire il sito, vedo che dedicate tantissimi approfondimenti all'argomento. Ci sono studi nuovi che ci raccontano delle tendenze interessanti, la donna e il risparmio, la donna e i mercati finanziari, la donna e le attitudini all'investimento. Che cosa possiamo raccontare di interessante? Ma allora, intanto che Global Thinking Foundation, insieme all'Università George Washington, ha avviato un'attività di ricerca scientifica proprio non solo sui millennials ma anche sulle differenze di genere e poi su quelli che sono risultati proprio a livello OCSE, dove non possiamo consolarci del fatto che l'Italia sia in media europea, che vuol dire sotto il 30° posto, ma dobbiamo notare, proprio lavorare sulle differenze di genere, dove la fondazione si sta impegnando anche sulla parte riguardante la violenza economica e quindi tutto ciò che porta le donne fuori da un discorso di indipendenza economica. Quindi abbiamo un ambito educazionale relativo alla financial education e quindi a fare delle ricerche su dove si posiziona l'Italia rispetto al resto e cosa si può fare in un'ottica di strategia di educazione finanziaria, come speriamo venga approvato dal governo tra poco. Esatto. E poi dall'altra parte non solo risalire quindi le classifiche OCSE per quanto riguarda le studentesse e le donne in generale, ma anche lavorare su nei confronti degli adulti proprio per una percezione, una diffusione dei concetti base di finanza e di economia per le donne, per evitare proprio quelle situazioni che poi portano a questioni estreme di cui purtroppo sono piene le cronache. Tra l'altro, che ci sia anche una differenza di approccio nella gestione del risparmiatore tra consulente uomo e consulente donna ce lo raccontano molto spesso anche altri esperti che vengono qui ad incontrarci. Proprio una questione qualche volta così di sensibilità, non che sia meno sensibile l'uomo, ma la donna proprio generalmente un approccio un po' diverso, ma magari dedicheremo a questo argomento anche un'altra puntata. Detto questo, andiamo all'attività di FEDUF, perché non abbiamo mai raccontato bene bene che cosa fate. Abbiamo avuto un modo per conoscervi in occasione del Festival dell'Economia di Trento ad inizio giugno, dottoressa Boggio Robutti, ma oggi vogliamo cogliere l'occasione anche per fare un po' un punto della situazione, perché fate tantissime iniziative sul territorio, tantissime le svolgete nel mondo della scuola, tanto che ci sembra quasi paradossale che sia così intenso oggi il dibattito sulla necessità di rendere obbligatoria l'educazione finanziaria appunto come materia scolastica, no? Quando poi, se andiamo a ben vedere, se si vuole, a scuola questa disciplina in qualche modo c'è un grande dibattito quest'anno, perché aspettavamo che vedesse la luce anche il disegno di legge citato da Claudia Segre, appunto, dell'onorevole Maurizio Bernardo. Detto questo, voi come FEDUF, bilancio 2016, avete fatto qualcosa come 82 eventi sul territorio, coinvolto 17.000 studenti, quasi 1.500 docenti e 240 cittadini. Per fare, Boggio Robutti, che cosa? Allora, noi in realtà cerchiamo proprio di sensibilizzare il paese in tutte le sue fasce di età. È più facile farlo nella scuola per tanti motivi, in parte già citati, ma noi non ci fermiamo lì, cerchiamo di andare proprio verso gli adulti. cerchiamo di avvicinare il paese a una cultura economica che c'è poco, perché c'è molta soggezione, c'è poca preparazione, perché sono temi complessi, parole complesse, ci sono mille motivi. La Fondazione, che è forse l'unica istituzione che esiste in Italia che ha come missione statutaria quella di divulgare l'educazione finanziaria, si pone proprio come un ente che divulga. Quindi noi non facciamo formazione, non siamo dei tecnici, non siamo degli economisti. Cerchiamo di fare in modo che attraverso tanti strumenti, alcuni sono stati citati, i programmi nelle scuole, le partecipazioni ai grandi appuntamenti come il Festival dell'Economia di Trento, non solo, spettacoli teatrali, insomma strumenti che veramente cercano di rendere più semplici, più diciamo familiari dei temi difficili, insomma cerchiamo di portarli in giro per l'Italia. È stato detto che la legge della buona scuola ha fatto tanto perché ha già introdotto le competenze economiche di base come competenze indispensabili per i cittadini del domani. Quindi quest'anno noi abbiamo potuto fare numeri ancora più grandi proprio perché c'è una grande richiesta da parte degli insegnanti. Manca un po', come ha detto prima Claudia Segre, diciamo una strategia nazionale che cerchi di organizzare, di rendere più sistematico e continuativo il molto e buono che c'è già. Tra l'altro, a proposito della mancanza di questa strategia nazionale che dovrebbe arrivare, noi in occasione di un evento speciale che abbiamo largamente pubblicizzato anche qui nel nostro programma, appunto, abbiamo fatto il 18 novembre scorso Investire in Formati Live qui al Sole 24 Ore, abbiamo invitato proprio l'onorevole Maurizio Bernardo, che a settembre aveva promesso il provvedimento in cui questa strategia nazionale è contenuto arriverà a dicembre, poi a novembre ci ha aggiornato della situazione. Non ce la faccio per questioni di referendum e non solo, per cui tutti rinviato a gennaio, ma secondo lei il 2017, almeno nella prima parte, Claudia Segre, dell'anno, vedrà la luce questo provvedimento che aspettiamo da così tanto tempo? Sì, la novità è proprio quella di ieri, in quanto l'onorevole Bernardo ha sollecitato il parere della Commissione Bilancio e quindi nello specifico proprio al ministro Piercarlo Padoan è stato chiesto di, in vista del decreto sul sistema banca e il mondo del risparmio, di inserire la discussione sull'educazione finanziaria ed arrivare appunto a questo discorso della strategia del comitato a livello nazionale. Questo dovrebbe accelerare i tempi e quindi speriamo che vada in approvazione entro il primo trimestre di quest'anno. Benissimo. Boggio Rubutti, tornando a lei, allora mi interessa capire soprattutto con il mondo della scuola che cosa avete fatto appunto come FEDUF, perché avete realizzato davvero tanti programmi di natura didattica come per esempio il Pay 2.0 sulle nuove frontiere della moneta elettronica, che sarà quella che quasi esclusivamente i giovani utilizzeranno. Esatto, figuriamoci se sono interessati a tutto il dibattito sul contante, il portafoglio, eccetera. Tra l'altro, proprio in occasione del recente salone dei pagamenti che si è svolto qui a Milano, avete presentato anche una ricerca sulla relazione fra i giovani e il denaro elettronico realizzato dalla Doxa. Vogliamo capire cosa avete scoperto partendo proprio da questo. Poi andremo anche al tema molto delicato dell'alternanza scuola-lavoro, ma giovani e moneta elettronica. Allora, innanzitutto una sorpresa. I giovani che vivono online, vivono di strumenti, di interazione con la rete, sono affezionatissimi alla moneta vera, fisica, al contante. Ah. Questo ci ha veramente sorpreso, ma l'abbiamo poi riscontrato non solo dalla ricerca Doxa, ma l'abbiamo riscontrato proprio nelle scuole, nelle classi, parlando con i ragazzi. Loro ricevono dai genitori un'informazione che in realtà, se volete, non è corretta, perché sono convinti che il contante sia più sicuro della moneta elettronica e sono convinti che con il contante sia più facile controllare le spese. Noi sappiamo che invece è proprio il contrario. Allora, il contante è meno sicuro per mille ragioni, dalla possibilità di perderlo ai furti, eccetera. Il contante consente minore tracciabilità delle spese. In realtà i pagamenti elettronici favoriscono molto anche l'esercizio di gestire le proprie entrate e uscite, perché lasciano una traccia che quindi è consultabile in ogni momento, che ci dà chiaramente la situazione di quanto è entrato, quanto è uscito in un certo periodo di tempo. Quindi la grande sorpresa è stata questo controsenso. I ragazzi sono convinti di una cosa perché non la conoscono, ed ecco perché noi cerchiamo nelle scuole di portare dei programmi didattici sui temi vari, tanti, dell'educazione finanziaria, sempre però visti in un'ottica di cittadinanza economica e quindi di come gli argomenti dell'economia sono vicini alla loro esperienza della scuola. La ricerca Doxa ci dice che i ragazzi, ma lo sappiamo tutti, hanno ampia disponibilità di denaro che arriva da paghette, da regali, quindi gestiscono il denaro. Lo fanno però in maniera poco consapevole, perché nelle famiglie purtroppo l'educazione all'uso corretto del denaro, rispettoso diciamo noi, Non c'è, insomma, c'è poco, diciamo. Quindi magari la vostra prossima frontiera di lavoro potrebbe essere quella, no? Implementare un po' le iniziative di dialogo in famiglia sul tema del denaro, anche se anche lì molto, molto lavoro didattico c'è. Mi riferisco per esempio al lavoro che ha fatto la professoressa Emanuela Rinaldi, che è una ricercatrice che adesso lavora all'Università di Udine, che ha fatto appunto tante pubblicazioni proprio per migliorare questo dialogo, però evidentemente qualcosa in più da fare in quel terreno c'è, Boggio Robutti. C'è molto con Emanuela Rinaldi. Già 3 anni fa abbiamo fatto un volume che ha ancora un enorme successo, si chiama Fiabe Denaro. Altro che l'abbiamo presentato anche qua, regalato, guardi, stracitato, e ci piace sempre moltissimo. Ecco, Fiabe Denaro aiuta i genitori a passare dei messaggi di uso corretto, consapevole del denaro e dei temi collegati ai bambini piccoli. È stato fatto addirittura per le scuole dell'infanzia e i primi anni delle primarie. È un libro utile. I genitori, quando lo vedono e quando realizzano che c'è da lavorare su questo fronte, lo fanno. Però vi assicuro, noi è da anni che ci chiediamo come fare proprio a raggiungere i genitori per sensibilizzarli. Certo. Vi butto giù in un secondo una battuta. Ricordo che i bambini del giorno d'oggi vedono i soldi uscire dai muri attraverso gli il bancomat. Sì, esatto. Quando mamma e papà dicono, ho utilizzato questa immagine anche qualche tempo fa, non mi ricordo perché trasmissione, forse riparlando ancora di questo argomento, e così ho invitato un po' gli ascoltatori a raccontarci quante volte vi è capitato di discutere con uno dei vostri figli perché non volevate comprare una cosa, provando a spiegare che guarda che per comprarti quella cosa mamma e papà devono lavorare molto, e il bambino ti senti rispondere, ma vai al bancomat, esatto, ma digiti 2 pulsantini e da lì esce, no, proprio come una banca centrale che stampa certo. Boggio Robutti, allora ci fermiamo adesso, devo raccontare la borsa, poi prenderemo a spunto la seduta di borsa invece per cominciare a coinvolgere Claudia Segre e Luciano Turba sugli scenari appunto finanziari, cosa dobbiamo aspettarci nel 2017, perché dobbiamo sì fare molto lavoro, sforzarci di più per avere maggiori nozioni dal punto di vista economico finanziario, ma dobbiamo anche impegnarci un po' di più a leggere i giornali economico finanziari e non trascurare i fatti più importanti. Cuore e denari. Una monetina a te, una te, una monetina pure a te, così fanno tre, una monetina per questa serata che non può finire. Io l'ascolterei sempre tutta. A proposito, visto che in questi giorni coinvolgiamo i cantanti delle nostre colonne sonore, Daniele Silvestri lo chiamerei molto volentieri. Guarda, adesso scateno Marco per i prossimi giorni, ce la facciamo cantare in diretta. Tra l'altro, a proposito di monetine, carta di credito e contante, Nicoletta, si è scatenato grande dibattito fra gli ascoltatori. È un tema sempre, anche questo, divisivo, lo possiamo dire? Meglio il contante o la moneta elettronica? Io lo so che a te piace di più il contatone frusciante, la banconota da 500 euro che Draghi vuole portar via dal mercato, tu invece lì sei pienotta. No, io, ma non è proprio semplice come, cioè, è un discorso molto più complicato e però insomma non che è dicono gli ascoltatori, così. Gli ascoltatori che tu però sono li più contenti da WhatsApp, della moneta, della carta moneta. Del contante, sembra che le spese gestite col contante siano più facili da tenere sotto controllo, non solamente, io credo, non si riferiscono alla tracciabilità, ma al fatto che dici, ecco, avevo 50 euro, ecco ne ho più solamente 20, devo fare attenzione, mentre se strisci il bancomat o la carta di credito, come se tenerti gli scontrini in tasca fosse così faticoso fare un conto di fine anno. Noi non siamo addetti ai lavori, i tuoi ospiti sicuramente avranno delle buone ragioni per farci cambiare Claudia idea. Segre, Luciano Turba sono addetti ai lavori per quello che riguarda i mercati finanziari, scenari internazionali, e siccome anche lì, a parte quello che abbiamo in portafoglio, dobbiamo anche guardare quello che ci accade intorno, è bene che si sappia un po' quello che sta accadendo. Allora, Claudia Segre, ricomincio con lei perché vorrei partire da questi fermenti italiani, tema bancario, scalate ostili, un Natale che sarà dir poco effervescente per la borsa italiana, c'è la questione Monte dei Paschi delicatissima con molte implicazioni preoccupanti, ci sembra ormai chiaro che si vada al salvataggio di Stato, però non le voglio chiedere un'opinione personale su questo, anche perché mercati aperti, l'aumento di capitale è ancora in corso, è bene non dire nulla, è più corretto. Però il tema è, che impatto sta avendo questa situazione sul resto dei mercati? Lei che comunque ha anche questo approccio di carattere internazionale, perché mi pare che tutto sommato alla fine non ci sia questo grado di allerta europea sul quadro bancario italiano o mi sfugge qualcosa? No, intanto diciamo che abbiamo avuto un salvatore della patria che si chiama Donald Trump, che può piacere o non piacere, ma con quel discorso su quello che farà nei prossimi 100 giorni ha catalizzato tutta l'attenzione sul nuovo piano infrastrutturale, sul piano della fiscalità, e quindi con questo trascinamento dei mercati americani anche i mercati europei hanno preso respiro. Le elezioni austriache sono andate tutto sommato bene, non c'è stata una deriva preoccupante, quindi si è accantonato leggermente quello che sono le preoccupazioni europee, e anche il problema italiano è stato ridimensionato non solo dal fatto che c'è stato immediatamente la soluzione governo del giorno dopo in vista di prossime elezioni, ma soprattutto perché c'era già stata una presa di distanza da parte di molti investitori esteri che si erano messi in un po' alla finestra rispetto all'Italia, e quindi abbiamo avuto un ritorno dello spread dai picchi fino a ridosso dei 180-190 basis point fino agli attuali 157-160, quindi siamo in una zona di sostanziale sicurezza. Quello che sta aiutando anche l'Italia è che era il mercato che aveva perso di più in assoluto sui mercati europei, e quindi c'è stata anche una opportunità che si è creata e che di fatto ha portato a un rally di fine d'anno che ha dimezzato le perdite sin dall'inizio dell'anno, in vista di questa soluzione se vogliamo dire definitiva sulla questione banche, che è il grosso nodo per il nostro destino e per il nostro paese. Allora, Donald Trump, parlando del nuovo presidente americano che si insedierà senza Andrea Bocelli appunto il 20 gennaio e purtroppo dovrà fare a meno del nostro tenore, il riferimento ovviamente agli Stati Uniti, alle iniziative delle banche centrali, turba finalmente, vengo a lei, ha sentito prima tutte le altre considerazioni di altro tipo, adesso vengo invece al tema che le è più chiaro, appunto Donald Trump, Stati Uniti d'America, Federal Reserve, quindi attivismo delle banche centrali. Banche centrali che, come negli Stati Uniti e anche in Europa, ma non solo, hanno gestito molto bene la crisi, hanno tamponato anche i cali di mercato, però hanno anche fatto dell'altro, prodotto altri effetti, hanno esasperato il contesto di tassi di interesse che sono stati resi bassissimi ai minimi storici. Allora, nel 2017, quantomeno la Banca Centrale Americana ha già cominciato a farlo, le appunto banche centrali ridurranno la loro presenza sul mercato. Ci sono però ancora dei rischi a ribasso per l'economia globale, per cui bisognerà vedere quanto potranno spingersi in avanti. Allora, le chiedo una considerazione di carattere generale. Da questo punto di vista, lei che quadro vede? Vabbè, allora, siccome le piace parafrasare i cantanti, uso anch'io, parafrasando... Pensavo volesse cantare. Guarda, no, parafrasando Cat Stevens che cantava The Year of the Cat, questo potrebbe essere The Year of the Dollar. Questo perché? Perché appunto il discorso di Donald Trump è stato un discorso che ha molto calmato i mercati, che fa sperare in un'economia americana che continui a galoppare, e la decisione della governatrice della Federal Reserve Yellen di alzare i tassi il 14 dicembre, ma soprattutto il discorso che è stato fatto dopo, dove ha detto che sostanzialmente potrebbe alzarli ancora tre volte, questo amplierà di parecchio carry trade a favore del dollaro nei confronti dell'euro. Mi utilizzi concetti difficili che poi il carry trade dobbiamo spiegare. La differenza di tasso tra dollaro e euro, e quindi questo potrebbe portare a un dollaro forte. Uso il condizionale perché sui mercati il condizionale è d'obbligo, perché poi è molto facile fare analisi, sparare la parità, sotto la parità. Ah, tra l'altro avevo già questa prossima domanda, quindi già lei mi dice che non gliela devo fare, insomma. No, se no, vedo no, la parità euro-dollaro. me la faccia pure dopo. Intendo dire che i mercati poi però hanno dei momenti di aggiustamento. I mercati in situazioni nelle quali non ci sono forti tematiche che arrivano dalla macroeconomia, dai dati economici e via dicendo, seguono anche l'analisi grafica, seguono anche resistenze, supporti e via dicendo. Okay. Quindi potremmo anche vedere un euro che inizialmente magari si rafforza un po'. Tendenzialmente non vedrei un dollaro debole nel 2017, vedrei una borsa americana che dovrebbe continuare a performare, e quelle europee che, se l'economia americana comincia a dare segnali continui di miglioramento, potrebbero cominciare effettivamente ad andargli dietro, considerando che, come ha detto prima, Draghi ha fatto un lavoro enorme negli infatti, ultimi due e anni. Poveretto ancora non è finita. Allora, il 2017 sarà l'anno del dollaro, se schiaccerà l'euro fino alla parità non lo sappiamo, di sicuro sta portandosi ai massimi da 13-14 anni nei confronti di tante altre valute, tante altre divise. Con che implicazioni, Claudia Segre? Come si sta rimescolando un po' l'equilibrio economico mondiale alla luce di questo, della Trumponomics, perché peraltro è questo il tema. La Trumponomics e soprattutto la Trump Inflation ha portato a qualche problema soprattutto sui paesi emergenti, in un momento in cui molti di questi, vedi il caso della Turchia, il caso del Brasile per i problemi politici che li contraddistinguono, il caso dell'India per il processo di demonetizzazione, si sono stati messi un po' sotto pressione da questo dollaro forte. Quindi c'è stato uno spostamento dei portafogli immediato come esito delle elezioni americane nei confronti dei mercati sviluppati e del mercato americano in particolare. Il differenziale, come è stato detto prima, intorno ai 2 punti tra i mercati americani e quelli europei permane a livello di titoli di Stato e quindi crea delle opportunità, e dall'altra parte addirittura ha schiacciato l'oro, perché tutta l'attenzione si è rivolta a un prossimo obiettivo del petrolio tra i 65 e i 70 dollari per il 2017, e l'oro, un po' per i problemi in India, un po' perché è venuto meno come valore di moneta rifugio, ha visto spostarsi proprio i flussi su questo dollaro forte che caratterizzerà un po' l'anno, e l'Europa deve avere a che fare di nuovo con la questione Brexit all'inizio dell'anno. Devono iniziare le negoziazioni, perché non è che possono ancora portarla tanto per le lunghe. Dopo... E poi soprattutto con le prossime elezioni in Francia e in Germania, che saranno un altro catalizzatore di volatilità per i mercati. E in Olanda anche, peraltro. Quindi variabile politica, i 3 temi importanti dell'anno prossimo, beh, questi li avevamo già detti, una presenza molto rilevante appunto del dibattito sul dollaro, e poi petrolio, lei ci diceva, tra i 65 e i 70 dollari. Sì, l'accordo che è stato fatto all'OPEC è un accordo storico, al di là dei dati i dati americani che sono usciti ieri sulle riserve, di fatto si dovrebbe rafforzare ulteriormente, e questo aiuterà anche una sorta un po' di riequilibrio nei rapporti tra paesi OPEC e non OPEC, e aiuterà ulteriori investimenti su tutto ciò che è legato al petrolio, gli energetici che sono rimasti indietro, e anche tutti quei prodotti come ETF o altro che permettono di sfruttare questa opportunità di rafforzamento del petrolio. Intanto state continuando a scriverci e chiamarci per intervenire sul tema dell'utilizzo del bancomat, della carta di credito, della moneta elettronica. Diteci anche se qualche fatto economico o finanziario particolarmente forte vi ha turbato quest'anno e come intendete approcciare anche con la tematica finanziaria dall'anno prossimo. Raccontatecelo all'800 24 00 24. Sapete che faccio? Prima della prossima domanda, Luciano Turba, faccio subito il domandone, la butto lava. A bruciapelo, questa non so se se l'aspettano. Ma nel collegamento di borsa l'ho anche detto, vediamo. Allora, è atteso tra oggi e domani, quindi proprio nelle prossime ore, l'ultimo passaggio della scalata dei francesi di Vivendi a Mediaset, con l'aggiornamento della quota che dovrebbe essere a ridosso del 30%, cioè poco sotto la soglia dell'OPA, obiettivo del colosso transalpino. Allora, guardate che facile. Cosa significa OPA? E poi, se oltre a sciogliere la sigla ci volete anche spiegare il concetto, meglio ancora, invece di un libro due, ma magari anche tre. Niente. Arriva panettoni? Anche il panettone, no? Subito, guarda che abbiamo pensato la stessa cosa. No, perché poi tocca mandare le ricette di Attilio Speciani. No. Quelle masticate, che ridimensionano il giro vita. Allora, valgono possibilmente solo le risposte all'800 24 0024. Claudia Segre ci ha portato una marea di manuali di educazione finanziaria. Lo ricordiamo peraltro quella pubblicazione, che cos'è? Sì, infatti abbiamo pubblicato questo glossario Educazione Finanziaria, Parole di Economia e Finanza, con temi d'attualità dalla Brexit soprattutto all'aspetto previdenziale, perché lanceremo uno sportello aperto gratuitamente proprio sulla previdenza e le assicurazioni come fondazione, e quindi questo glossario sotto l'egida dell'onorevole Maurizio Bernardo e quindi della Commissione Finanze della Camera dei Deputati è stato già distribuito in 125.000 copie alle scuole a livello nazionale e sarà nelle librerie da gennaio. Cuore e denari. Lo rimettiamo subito. Allora, prendendo a spunto le vicende che riguardano Mediaset e la scalata ostile di Vivendi, compra, Vivendi sta arrivando a ridosso del 30%, che è poco al di sotto appunto di quella soglia necessaria per l'OPA, che è l'obiettivo del colosso transalpino. Cosa significa OPA? Raccontateci, se ci volete spiegare anche il concetto. I nostri libri arrivano anche più volentieri a casa vostra, 800 24 00 24, il numero verde a vostra disposizione. Allora, Luciano Turba, il 2016 è stato caratterizzato per un altro argomento sul quale abbiamo veramente argomentato moltissimo: i tassi di interesse delle obbligazioni governative, soprattutto quelli che hanno una scadenza breve, a zero e anche sotto zero, uno scenario che ha molto disorientato molti risparmiatori, che ancora fanno fatica a capire perché devono prestare del denaro allo Stato, non solo per non vedersi restituito nulla, ma anzi lasciando nelle casse appunto dello Stato qualcosa oltre alle commissioni bancarie, che però credo siano state appunto azzerate per queste operazioni. L'elezione di Trump invece su determinate curve della scadenza appunto della curva dei titoli di Stato ha portato un po' un nuovo irripidimento. Detto questo, da questo punto di vista, che scenario abbiamo per il 2017? Il fatto è che i titoli di Stato, giustamente, a seconda dei vari paesi, perché poi, come ben sappiamo, c'è il discorso dello spread, però devono seguire quello che è l'andamento dei tassi che la BCE declama per tutto il sistema. Quindi se i tassi sono negativi, perché anche il rifinanziamento delle banche presso la BCE è stato portato a tassi negativi proprio per aiutare un aumento dell'economia, per spingere a prestare denaro e a fare ripartire l'economia, purtroppo l'investimento a breve su titoli di Stato è diventato poco attraente, e temo che anche per il 2017 non vedremo un aumento che possa portare a rendere ancora attraente questo tipo di investimento, certo, perché la BCE credo che farà ancora per un po' di tempo la stessa politica. Oltretutto è tutta la BCE che si sta comprando. Sì, certo, anche se ha diminuito da 80 miliardi a 60 il quantitative easing che sta facendo, però tendenzialmente l'approccio di Mario Draghi è ancora push forte all'economia, perché in qualche modo bisogna che l'economia europea, speriamo aiutata dal traino di quella americana, comincia a ripartire, perché sennò è... Quindi anche per quel risparmiatore che continua ancora ad essere ostinatamente affezionato al titolo di Stato, non vuole prendersi un rischio di tipo diverso sul mercato azionario, ma rimane ancora appunto sulle obbligazioni governative, pur cercando di far passare con chiarezza il messaggio che anche quello è diventato un investimento rischioso, non è più la cassaforte come la concepivamo appunto in passato. Secondo lei che tipo di posizioni può prendere un risparmiatore che ancora dice io voglio quello, il mio appunto botto BTP, ma ecco uno strumento diverso? Ma guardi, tendenzialmente le posso dire che si può rivolgere o a gestioni patrimoniali o a fondi di investimento piuttosto che ETF che vanno sul mercato monetario. Chiaramente l'approccio di investimento è un po' diverso di quello che può essere l'investimento di un privato, e potrebbe dargli qualcosina in più. Tendenzialmente sul breve in questo momento, ed è il motivo per il quale anche la borsa italiana sta performando, uno è meglio che provi a prendersi dei rischi calcolati. E quando parlo di rischi calcolati parlo di conoscere bene quello che si sta facendo. Io ho aderito con entusiasmo al progetto di Claudia un po' di mesi fa, quando me l'ha prospettato, proprio perché mi rendo conto che l'educazione finanziaria in Italia è molto bassa. C'è stata questa inchiesta della Consob che ha un po' svegliato tutti. Non è possibile che in un paese che si definisce evoluto ci sia un livello di educazione finanziaria così bassa, perché poi è molto facile fare proclami populisti, ecco guarda cosa succede, mi stanno e però non conoscendo neanche quello che si fa, insomma. Esatto, però insomma io dico anche sempre che noi possiamo fare moltissimo per migliorarci, per conoscere un po' di più poi anche l'etica dell'industria, che deve anche terminarla di continuare a piazzare strumenti di investimento non adeguati alla clientela che segue. Però quindi ci sono molti lavori da fare. Diciamo che la parola è molto semplice comunque, diversificare, punto. Ecco. Cioè se uno butta tutta la sua ricchezza su un solo strumento, esatto, e poi questo strumento va male, come hanno fatto molti risparmiatori che avevano un'unica obbligazione subordinata, esatto, dove avevano messo il risparmio di tutta la vita. Soprattutto conoscere, esatto, quali sono le tematiche, cioè che cosa implica fare un'obbligazione subordinata, che chiaramente rende di più, ma ci sarà un motivo perché rende il di più. Il problema è che quelle delle quattro banche risolte appunto non rendevano neanche tanto di più rispetto ad un titolo di Stato appunto di pari scadenza, no? Se non mi ricordo. Detto questo, a parte ciò, un'altra parola che rimarrà inchiodata nella nostra testa, che ha contraddistinto tutto il 2016, sarà sicuramente subordinato o subordinata. Adesso un prospetto informativo che ci presentano appunto per descriverci l'investimento che facciamo, andremo sicuramente a cercare questa come prima parola. Allora, siamo alle 11.54, a che ora chiudiamo? A 57, allora abbiamo lo spazio per i nostri ascoltatori. Renato da Verona voleva interagire sul tema iniziale, utilizzo di carta di credito e contanti, velocissimo, grazie. Sì, niente, praticamente volevo dire le stesse cose che avete detto poi anche voi. E io non sono molto d'accordo con quello che diceva una signora prima sul fatto che fosse meglio usare le carte di credito che non in contante per un discorso di gestione dei soldi. Perché anche secondo me, se tu apri il portafoglio ai 50 euro e cominci a spendere 10, 20, 30, ti rendi conto che stanno calando. Esatto, se e lo non fai con le spicciate classiche della carta di credito, invece non te ne rendi conto. Renato, ecco, è proprio un approccio differente. Io le ribadisco, se io so testa. Che sul mio conto corrente ho 1000 euro e dico oggi più di 100 non voglio spendere, faccio i miei acquisti con il bancomat, mi tengo gli scontrini e sono in grado di fare un'addizione e sapere quanto spendo in una giornata. Però è proprio un approccio mentale, non c'è niente da fare. Boggio Robutti, che ne pensa? Bellissimo, quello che avete detto è un approccio mentale, però ricordo che il costo del contante è spaventoso, è alto, e non ci si pensa, sono circa 9 miliardi di euro l'anno che solo in Italia si spendono per avere moneta circolante e 30 miliardi l'anno di mancati introiti dello Stato per l'economia sommersa che passa attraverso il nero. Quindi al di là di tutto, di un'abitudine concettuale che deve essere così passare nella nostra cultura, c'è poi anche un fatto oggettivo. Senta, oggi non ce la facciamo, ma io la invito in un'altra trasmissione, perché anche se andiamo in onda il mattino gli insegnanti non possono ascoltarci, invece voglio proprio raccontare cosa fate per così un po' stimolare gli insegnanti a portare il tema dell'educazione finanziaria a scuola. Ci risentiamo nel 2017, Giovanna Boggio Robutti. Molto volentieri, io vi ringrazio tanto, faccio a tutti gli ascoltatori e a voi tantissimi auguri. Grazie, grazie mille, vi ricordo andate a guardare un po' tutto sul sito di FEDUF e quello che si fa. Marco da Genova invece risponde alle domandone. Marco, buongiorno. Buongiorno a voi. Che cos'è l'OPA? Cosa sta facendo? Cosa vuole fare vivendi su Mediaset? Crediamo per lui. Offerta pubblica di acquisto. Ottimo, le mandiamo il nostro glossario di economia e finanza della Global Thinking Foundation. Allora, noi abbiamo terminato. Claudia Segre, grazie per averci accompagnato in questi mesi con la vostra attività. Speriamo di ripristinare questo appuntamento con certamente voi nel 2017. Grazie, grazie anche auguri a Luciano Turba che ci ha raccontato un po', insomma, 2017, the year of the dollar. Grazie anche a voi e un augurio a tutti i vostri ascoltatori. Buone benissimo feste. Nicoletta, io ti faccio gli auguri di buone feste perché domani ti lascio da sola. Lo so. Il periodo natalizio lo fai da sola, ma torno con te il 30 di dicembre. Sei contenta? Sì, perché io ti lascerò perché dovrò prepararmi per la Befana, se no esatto, beh, con che anticipo, no, altro faccio? Che ma ci vuole bene, ci vuole tempo. Grazie a Marco Lombardo, Laura Vanossi e a Carmelo Lauricella, buone feste a tutti da parte mia, io ritorno con voi il 30, a presto.